ritorno ed ancora li osservo, quei segni graffiati scolpiti dal vento, sui muri, su fogli di carta lontani, di strade, di casa, le nostre rimani. Sui muri le scritte di noi ragazzini, a dirmi di quanto eravamo vicini. I nomi sui muri non restano soli, ci siamo anche oggi da giorni lontani. Poveri stanchi, giorni perduti a inseguirci ma senza raggiungerci mai. Penso che solo per pochi minuti, per quanti anni non mi perdonerai. E ora restano solo quei segni lasciati dal sole sbiaditi e mai cancellati. Ti ho vissuta, ti ho sognata, si sentiva forte. Tornare ancora insieme, io vedrei.